Salve da Radio Big World, Pasquale, e anche oggi saremo nell'argomento mescolare acqua e vino, ma sarà l'argomento appetitoso e anche un pochino sorprendente. Nel clima festaiolo di questi giorni, parlare di qualcosa di dolce, di gradevole ed appetitoso credo ci fa star bene, perché abbiamo ingurgitato, forse più che mangiato, tante cose, tra cui i dolci, e i dolci sono buoni e creano uno stato d'animo tranquillizzante e favorevole. Allora, oggi vi racconto della crema pasticcera e del sollievo agli occhi. Allora, la crema pasticcera, in teoria la conosciamo tutti, perché le nostre mamme, le nonne, forse anche noi l'abbiamo fatta. È composta da uova, da farina, da zucchero e da latte. Io vi suggerisco una ricetta popolare come quantità. È ovvio che se vedete che la quantità è abbondante per le vostre esigenze, perché casomai siete una sola persona, diminuite in proporzione le dosi. Se invece siete una famigliona di 15 persone, moltiplicate per 7 o per 8, ok? Allora, occorrono per fare questa crema pasticcera 2 uova. Gli specialisti dicono 2 uova senza albume, però vi assicuro che utilizzando 2 uova con l'albume viene ugualmente buona. Quindi, diciamo, occorrono 2 uova, poi 40 grammi di farina di grano, lo 00, anche un pochino più grosso, poi 70 grammi di zucchero oppure di miele. Il miele è un elemento nutritivo importante e ha meno controindicazioni dello zucchero per chi ha qualche problema di salute, tipo l'alterazione del metabolismo, eccetera. Allora, io vi invito a 70 grammi di miele oppure, meno gradevole, 70 grammi di zucchero. E poi occorre un mezzo litro di latte, che corrisponde a circa 500 grammi. E poi, questo è un gusto personale, ma provate, credo sia ben condivisibile, perché il caffè tutti o quasi tutti ce lo beviamo volentieri tutti i giorni, un pizzico di caffè in polvere. Prendiamo un tegame antiaderente. Questo è molto importante, l'antiaderente, perché se nella produzione della crema una parte si attacca al fondo, prende un odore pessimo e ci costringe a buttare via tutto. Allora, prendiamo un tegame antiaderente e ci mettiamo un po' del nostro latte. Ci spezziamo le uova e ci mettiamo il miele e mescoliamo. Quindi abbiamo una piccola quantità di liquido con il miele e con le uova. Mescolando, in teoria si deve riuscire a amalgamare tutto, cioè a togliere eventuali grumi. Se questo non avviene, dopo aver mescolato abbastanza, si filtra. E quando si filtra, si spreme pure i grumi, che spariscono e ridiventano liquido. Si prende questo composto, che è fatto di un po' di latte, di miele e di 2 uova, e si mescola ancora con un altro po' di latte che fa parte dei 500 grammi che noi avevamo messo da parte sul tavolo. Si mescola il tutto. Si unisce tutto il latte. Mescolare vuol dire girare con un mestolo di legno, possibilmente sempre nel solito verso, perché si dice e avviene che alle volte la crema impazzisce perché si è girato un po' nel verso destrorso e un po' nel senso sinistrorso. Quindi giriamo sempre nello stesso verso, e finché non si è mescolato tutto il latte con il miele, con le uova. Si aggiunge allora i 40 grammi di farina con un setaccio. Perché con un setaccio? Perché se appoggiamo sulla superficie del nostro liquido la farina setacciata, cioè fine fine, con facilità il liquido assorbe quella farina. Se invece ci mettiamo a pizzicotti la farina, può succedere che si formino dei grumi. Comunque, nonostante la nostra buona volontà di setacciare la farina, può succedere che ci sono dei grumi. Come si è detto prima, occorre filtrare e masciullare i grumi in maniera da ridurli in liquido. Poi si prende un pizzico di caffè, quello che adoperiamo per fare il caffè nella moka, per intendersi, e si mette in questo impasto fluido che abbiamo preparato. Nel frattempo abbiamo acceso il fuoco e il tegame antiaderente è sul fuoco basso e occorre subito iniziare a mescolare la crema girando sempre e soltanto in un solo verso, o destrorso o sinistrorso. Dopo circa 5 minuti che questo composto è sul fuoco, che è a fuoco lento, cioè non è una fiamma super vivace, è una fiamma abbastanza limitata per evitare il rischio che la parte bassa si bruci e quindi venga un prodotto da gettare. Allora si gira per circa 5 minuti fin quando questo composto non comincia a fare glup glup glup e viene su delle grosse bollicone. Quello lì indica che il prodotto è cotto e si vede anche che siamo arrivati alla cottura, perché mentre inizialmente il nostro miscuglio era quasi acquoso, principalmente era fatto di latte, ora si vede che è pastoso come una farinata, ecco, più o meno. Quindi si è nel frattempo spento il fuoco e si lascia raffreddare la nostra crema. Si prende una base spugnosa. Cosa vuol dire spugnosa? Vuol dire che si prende un pandoro e si fa a fette orizzontali. Com'è il pandoro? A spugne con buchini sottili sottili. Oppure si prende una base fatta in casa di pan di Spagna, oppure una torta alla fiorentina, e si divide sempre in maniera orizzontale. E in queste fette che vengono dal taglio del pandoro, dal taglio della base, dal taglio di altro, con queste fette si fa una piramide. Si mette una fetta di pandoro, poi con un cucchiaio si mette un bello strato di crema, poi si mette ancora un'altra fetta di pandoro e via finché non è finito o la crema o il pandoro. Il tutto si lascia un pochino raffreddare, perché se si mangia molto caldo produce un effetto che alle volte è utile ma alle volte è indisponente, cioè fa un effetto diarroico. Quindi bisogna non proprio farlo freddare assolutamente, ma che la temperatura del nostro prodotto sia calata, sia facilmente edibile, cioè non ci bruci le labbra o la lingua, eccetera. E si mette da una parte. Mentre si mette da una parte la nostra crema pasticcera e il nostro dolce capolavoro, facciamo un'altra cosa che può servire per rilassarsi un po'. E è quella che vi sto per suggerire, una tecnica di rilassamento e di sollievo per gli occhi. In cosa consiste? Mettetevi a sedere, respirate con regolarità, poggiate i gomiti sul tavolo e portate i pugni chiusi all'altezza degli occhi, a circa 10 cm dagli occhi. mentre il pugno rimane, i pugni rimangono chiusi, si aprono i diti indici sia della mano destra che della mano sinistra. Lo sguardo guarda lontano e i due diti della mano destra e la mano sinistra, i due indici sono, si cerca di ravvicinarli facendoli passare davanti allo sguardo che va lontano. Mentre facciamo questa operazione, a un certo punto si perde la sensazione di avere davanti i due diti e si vede due mozziconi di dito e una salsiccia che sta in mezzo ai due diti. È vero, provate, con un capellino d'attenzione si riesce a arrivare a questa soluzione che è molto riposante. Ecco, quando tra i due diti noi vediamo la nostra salsiccia, siamo in una posizione di massimo relax per gli occhi e rimaniamo in quella posizione, che se si perde poi si ritrova, per qualche minuto, quanto ci sembra utile per rilassare la nostra vista e i nostri occhi. Poi, quando decidete che il vostro rilassamento oculare è già efficace, basta, allora vi alzate, andate a prendere la vostra torta, il vostro capolavoro, e ve lo gustate con simpatia anche insieme a altre persone. Vi saluto da Radio Big World, alla prossima, e quando avete gli occhi stanchi ricordate questo esercizio che è ottimale. Allora, di nuovo da Radio Big World, Pasquale, alla prossima, mescoliamo acqua e vino. Ciao ciao.